Chi sono i polpi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eberci! Buonasera. Buonasera. E allora? Eccoci qua. Tutto a posto? Tutto a posto? Che stai combinando? Niente, nulla. A spasso. Basso ti sento, come mai? Beh, basso, Beh, basso, Giomari. Basso va bene. Non sono con l'antenna esterna, dai. Certamente non è vicino a... è lontano dal microfono, dai. Ho detto che sono con l'antenna esterna. Adesso va bene, va. E tu cosa mi racconti? Niente di nuovo, sempre le stesse cose. E basta, più o meno. A casa. Tempo feo. In campagna, andando stai? Sì, qualche volta così. A guardare però, non a lavorare, non si può fare niente. Lo so, è un brutto tempo. Via. Pomponi non fai, no? No, non l'ho sentito. Ho sentito ieri, ma oggi no. Vabbè, ci sentiamo, ci sei, dai, un po' preso con me. Ciao, ciao. Chi è? Chi è? Ah, cos'è dietro? Uscia buco. Ah, tu sei che mi cammi in neve. Beh, mezzo uomo, E allora, mezza donna, dimmi tutto. Dimmi tutto. A Roma non ti sei fatto vedere stamattina. Te l'ho detto che dovevo andare là, a Monserrato stamattina, a fare il colloquio. Beh, da poco. E mi hanno chiesto che lavoro volevo fare, che faceva la domanda per l'ufficio di collocamento. Hai capito? In pratica quello che faccio io fanno 18 mesi, poi 3 mesi senza niente e poi altri 12 mesi. E tu cosa gli hai detto? Cosa gli ho detto? Gli ho detto che a me andava bene fare il bidello e fare qualche altro lavoro, per dire, l'ufficio di collocamento. Basta che sia un lavoro che sia come si deve, gli ho detto, tutto lì. Bidello, quello che è, non ho detto, basta che lavorare, gli ho detto, a me non me ne frega niente. Io ho questi diplomi e tu vai da lì. E loro cosa hanno detto? Che hanno preso in cosa, no? Hanno preso in considerazione, come si dice? Ha preso i dati, adesso va all'ufficio di collocamento e manda i dati all'ufficio di collocamento, capito? Gli ho detto che ho fatto un sacco di domande, nessuno mi ha chiamato, gli ufficio di collocamento chiamano sempre gli stessi, gli ho detto. A un certo punto l'invalidità è questa, gli ho detto. A un certo punto ho detto cosa ci vado a fare. Ho fatto un sacco di domande, non mi hanno mai chiamato, erano sempre gli stessi. Quindi ho detto, vedete voi cosa volete fare? A me detto, non mi interessa detto, quello che sto ritirando adesso, a me interessa il lavoro, fisso. Uscirò a 80 anni rincoglionito, gli ho detto, ma a me l'ho detto, c'ho lo stipendio come si deve. Poi c'hanno la possibile macchina, non ne ho, c'hanno in pullman, se no mi ha detto, mi piglio quando c'avevo i soldi mi piglio del motorino, gli ho detto una macchinetta 50, gli ho detto e andrò a lavorare con la macchinetta, gli ho detto tutto lì. L'importante è che adesso la questione vada in porto, Antonio. È appunto per quello. È quello che ti stavo dicendo. Appunto per quello, speriamo bene. Speriamo, Antonio. Che Dio te la mandi buona, E gli ho detto di farla anche Rico, quella domanda, ha detto che gliela fa anche lui, mi ha detto. L'altro giorno. Ho detto, lui ti ha detto che stai qua dentro, ho detto, lampato, ho detto, fai la domanda, ho detto, ti presenti il foglio ISA, gli ho detto. Se sei fortunato, gli ho detto, e te l'accettano, gli ho detto, sei a posto. Meno sei tranquillo, non devi stare qua buttato, gli ho detto. Non hai gestione, vaffanculo, gli ho detto. Ma ci vogliono 55 anni, no, per fare quella domanda? Cioè, ce li hanno con 55 anni? Beh, dico, li ha superati pure. Appunto per quello, quindi dovrebbero dargliela, più, cioè, vabbè, sono in due, marito e moglie, figli, sono tutti per i fatti loro, quindi non ha nessun problema. Capito? Adesso vediamo. Speriamo. Vabbè, ma qualcosa daranno che... Senz'altro, sono arrivati i soldi a quanto sembra al comune, quindi dovrebbero fare la stessa cosa, cioè, l'altro RIS, cioè che sono arrivati 5 giorni fa i soldi, strano, prima delle elezioni, hai capito? Ma non quello che dovevamo ritirare noi, no? Sì, quella è la domanda che hai fatto tu, dice sono arrivati i soldi adesso, hanno fatto la domanda alla regione, solamente sono arrivati, ha detto. Stavo guardando il telegiornale ieri sera di Canale 12, c'era il sindaco, hai capito? E dice che sono arrivati i soldi, adesso dice li utilizza per fare queste cose qua, per distribuirle, hai capito? Strano, prima delle elezioni, chissà perché cazzo? Non lo sai che è così, non lo sai che è sempre fatto così, che prima delle elezioni... si fanno in quattro, poi hai capito, tanto quello là, il sindaco lo vogliono fuori. E lui ha detto che non se ne va adesso, hai capito, non se ne va, se ne va il prossimo anno, come da domare cosa, hai capito? E quindi, quanto ho ascoltato io ieri sera, dice sono arrivati i finanziamenti, gli ha dati alla regione, adesso dice apriamo i cantieri, assumeremo persone, chissà perché gli ho detto la settimana prima delle elezioni, ho detto arrivano i soldi, chissà perché. E allora bisogna andare a fare le domande, ma in via Zara oppure all'ufficio collocamento? Beh, quello non te lo so dire, adesso bisogna guardare su internet. Se ci sono le domande per aprire, cioè si aprono questi cantieri famosi per... quindi dovrebbero assumere. Ma vediamo, te lo dirò, appena vedo qualche cosa sul comune di Sassari te lo faccio sapere subito, Giuseppe. Così fai domanda e vediamo un pochettino se ti pigliano a cazzo. Speriamo, speriamo Antonio, speriamo che sia la volta buona. Infatti speriamo sì. Gli hanno detto le 5 Stelle, che i 5 Stelle non hanno nessun programma, e qua e là, e video l'ha detto, ma lo sapeva già che non hanno programma, l'ha detto anche quella persona lì. Lui, ma io non mi dimetto, finisco, dice, tutto l'anno che c'ho da fare, poi dice alle elezioni si vedrà, ha detto, hai capito? Ha detto a me, alle elezioni sei già muso, sei già vura. Compreso a livello anche regionale, perché non ci arriva, manco Garau è fuori dalle balle, a posto suo sono entrati entrata gente nuova, quindi si attaccano la trama, lui e Garau adesso. Sì, come tutti quanti, quelli del PD, si attaccano al trae, lui, Garau, Giacomo Sanna, poi... Fabio Pinna e tutti quanti gli assessori del PD, hai capito? Quello sì, adesso ci sono le cose, le regionali e le amministrative, cioè in pratica il sindaco, quindi il prossimo anno c'è quello lì e qual è il resto, quindi si vedrà adesso se continuerà la cosa che è successa adesso, che alle regionali fanno fuori tutti e abbiamo fatto un paio di risate, cioè. Allora sì che rideremo, speriamo che facciano pure tutti questi pezzi di merda. Io vabbè, comunque ne sono partiti 25 dalla Sardegna adesso, hai capito? Tra due di Forza Italia e tutto il resto è Bellini eccetera eccetera, quindi ne sono partiti 25, mi sembra che so. Ho capito. Se poi tirano il reddito di cittadinanza non è meglio del coso. Tanto sono obbligati a trovare un posto di lavoro, quindi in qualche posto ti infileranno. Adesso vediamo cosa vorranno fare, perché ogni volta venivano qui, facevano aprire le aziende, hai capito? Poi davano i soldi dallo Stato. Dopodiché con la scusa che l'energia costa parecchio qui, che sono tutte scuse, Allora prendevano e chiudevano, si mangiavano i soldi statali, capito? Adesso hanno finito di fare una prassi del genere. Ho capito. E domani ci scendi? Domani mattina sì, già scendo domani mattina. Devo portargli quelle batterie a tuo fratello, l'alimentatore, mi sembra che ce n'è uno da 18 volt, se non mi ricordo male. Devo cercarlo in quella busta. Se non uscendo quello da 13 qualche cosa già fa carica lenta, lo lascia 4-5 ore in carica con le batterie e lui è a posto per quella aspirapolvere. No, tanto che lui domani non ci sono, non c'è. Ci sono io domani mattina, apro io. Ah, beh, allora tu apri, poi mi piazzo con l'aspirapolvere, mi aggancio il caricatore, la metto a caricare. Se riesco a trovare con l'alimentatore da 13 volts, se vuoi sono 18, in 4-5 ore, cioè, è quasi carica la batteria perché è 14 volts. Quindi non è che le batterie non c'hanno nulla, non sono scariche, perché se no mi avrebbe dato 6 volts o 5 volts, invece me ne dà 14. Quindi con l'alimentatore che monta adesso non ce la fa. E l'alimentatore evidentemente è messo così, che magari lui gli hanno regalato, dice arrangiati, magari è da 6 volts, a quando a caricare, cosa ridere, è come la barca, che c'ha quel pannello solare che non ce la fa caricare le batterie della barca, hai capito? Ho detto, oggi, guarda questa batteria, non ce la fa, anche se è 24 volts, ho detto, arrivano 12, ho detto, sono 2 ampere, a quando a caricare quella batteria, ho detto, da 100 ci vuole, un anno ci vuole, ho detto. Vabbè, dai. Ci sentiamo dopo, dai, più tardi, dai. Vabbè, già sono qua all'ascolto, non c'è problema. Chi è? Ciucucciù. Boia. Beh, svegliato ti sei. Ah? Ti sei svegliato. Che cazzo ci hai addormentato? Come mai, non hai dormito? No. Faceva male la canna? Piagumato tanto queste. C'era un amico tuo, è venuto al circolo. E chi? Tuga? E il cazzo è buono, non me l'ammento io. Tuga? Non lo conosco questo Tuga io. Non lo conosci? No, non me lo ricordo io, magari lo conoscevo ma non me lo ricordo. Il cazzo, con tutti quelli che conoscevo CB. Mi ha detto, dice, ma Pomponio? Ho detto, Pomponio è morto. Ah, ma state in varia. Aspetta che mi tocchi i coglioni. Ah, affanculo, tu cazzo la morte. Dice che conosceva anche a Giampiero. E allora deve essere qualche amico suo, senz'altro, perché... quando abitavamo in via del Zedo, venivano gli amici suoi, sapevano che c'era il baracchino e parlavano anche loro. Questo entrava come Stuga. Tuga, boh. Non me lo ricordo adesso. No, mi lamento. Dice che una volta che gli è fatto l'impianto di casa, questo, in via Verona. In via Verona? In via Verona è impossibile. Non c'è in via Verona il baracchino. L'impianto, no, il baracchino. L'impianto... il televisore. Probabile, magari. Tuga, non me lo ricordo. Avanti che mi chiama. Dimmi tutto. Come stai uscendo con questo microfono? Mamma mia, cupo semi. Cupo no, va. Sei cupo, la verità. Una patata in bocca sembra che abbia. Ciao Pomponius. È vero. Ciao Natalina, sa. È così, va meglio? Così sì. Allora, quel microfono non serve a niente. Non serve a niente, no. Per carità, ragazzi. Oh, il microfono per lì. Cosa, Natalì? Ho detto, quanto mi dai che te lo do il microfono per lì? Non ho capito cosa ha detto. Ha detto, quanto ti dai che ti dà il microfono per quel baracchino? Non ce l'ho un nuovo dell'originale. Cosa? Non impendo di nastro. Ciao Cipe Giughizzi, ho praticamente gli ho allargato il buchettino. Ho provato a vedere se usciva meglio, ma mi sa che ha peggiorato. Cambia la capsula. Metti una di quelle capsule verdi, piccoline, di portatile. Non ne hai? No. Vabbè, lì monta le capsule piccoline, piccoline. Ci sarebbero volute di quelle di coso. Di quei... cazzo, quante ne hai riparate di quei telefoni piccolini? Metti una di quelle, di quei telefoni. Va bene lo stesso. Cellulare, me. Qualcuno mi sa che già ce l'ho, dovrei smontarlo e glielo cambio. Io lo so che sono piccoline, ce lo so. E sono di questi giorni, ci provo, dai. Vedrai che se li cambi la capsula e metti una di quelle di telefono, poppa molto di più. Lo sai, il telefono monta le capsule piccole e sono molto sensibili. Vabbè. La seconda volta che lo provo, perché la prima volta l'ho provato e mi hanno detto che uscivo a cupo. E poi ho sentito che bisognava allargare il buchettino che c'è, no? Il foro. L'ho allargato poco a poco, ma mi sa che ha peggiorato. No, quando una capsula esce così, cambia gliela futtidini. Non è questione di essere buco grande o buco piccolo. Se nasce cupo, rimane sempre cupo. Già lo so, giallo. Prendi quei telefoni cellulari, quei Motorola vecchimi. 8007, qualcosa del genere, che sia di Baribella, ma se sia un telefono cellulare. Ne stacchi la capsula, gliela metti lì, vedrai che ti trovi bene. Ci provo. Giuseppe, avanti. Da c'è? C'è Natalino che è entrato. Ciao Natalino, avanti. Antonello. Ehi. Lo sai, no? Lo so che c'è, stai facendo la cacca. Mi è venuto un mal di stomaco adesso, dai. Ma chi è il Leoncino quello? Peroncino, eh. Ah, mi senti, Giuseppe? Cos'è, quello gagghino sei, Giuseppe? Cos'è lui? Ha detto quello gagghino sei. Davvero, mal di stomaco è venuto. Ho mangiato un mandarino a casa e mi ha fatto accusi. Iaia. Chissà cosa, o meno, ti diciamo. Qualche virus. Virus? Buffo, adesso, quasi. Per me è così zaino. E a te, all'aino. E barrato. Allora c'è un po' di cartita che c'ha vite. E barrato a te. Sì, barrendedi. Senti tu cosa ti ha detto Luca, dice che c'è la castrizza con cacciavite. E cacciavite piccolino. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, non mi sento. Non ti sento Natalì, Giuseppe. Pompa di più Natalì, mettila sopra il tetto con l'antenna. E perché dove ti credi che sia? E cazzo, arriva il segnale 4, è impossibile che sia sopra il tetto. Non è buono che se gli presto le... il portatile a cosa, a quella che abita lì via San Donato, esce più forte di te. È per forza, bisogna avere l'antenna alta, non è libera qua, capito? È bassa l'antenna. Adesso quando ti tiro il coso, la usi, gli porto il portatile a Rita, così la faccio parlare a casa sua, vediamo come esce. Che vuoi che ti dica? Qua è bassa l'antenna e... se non l'alzo non c'è nulla da fare. Tu allisciala, vedrai che si solleva. Sì, già la stavo allisciando, ma non si solleva, lui. Cazzo, Natalì. Sì, c'hai 50 anni e non solleva più. Babbo ne aveva 84 quando l'hanno lisciato. Dice, non la buona, ha detto, signor Bitta, cosa gli è successo? Si è allungata la proboscide. Sì, Non 50. Aspetta, avete parlato in 44. Cosa hai detto? Grazie. A Luca stavo rispondendo. Perché mi ha domandato se l'ho dormito. Tu eri a Ciuppendi, mi ha mandato una volta a Ciuppendi. Chi sei? Dovresti essere qua. Hai capito, Bubu. E allora? Che ci do, dille Antonio. Allora, babbo 34 anni, quando l'ha lisciato la dottoressa, ha detto stia fermo, si muove che si sta sollevando l'attrezzo. Allora, chissà che maledici c'hai 60 anni, se te lo faccio vedere io 60 anni. Me la pego. Barrando. Si bari, che si scherza, Luca. Barrato. Fai bene, grazie. Quando c'è l'amore c'è il cuore, quando c'è il cuore c'è l'amore. E allora, dunque oggi 62 al timbro. Luca, ma tu mi ami? No. Cosa se lo dà a cuore, Marina? Grazie a me di più, ma te ti dene, a me no. Sarò fuori. Che cosa? Altro da dire, cioè. No, già tutto quello che dovevo, adesso tocca a te parlare. Mi tocca a me. Hai detto no. Capito, perché io, cioè. A buttarcelo fuori. Senti, tu hai, Antonio. Che io ho sentito, visto. Stamattina mi avevo chiesto, dice, quanti anni è lei con la sua ragazza? Io ho detto 23. Ho detto perché? Caspita, mi ha detto. Ho detto basta zuffarsi tutti i giorni, gli ho detto si dura. Perché ho detto se uno si sposa, gli ho detto stai tranquillo che gli ho detto divorzia, con le corna. Invece quando ho detto convive, non succede nulla. Perché le corna si fanno uno con uno con l'altro e si va avanti, come fanno gli americani. Ma i corni si fanno quando tu gli dai troppo spazio libero. Invece se te la impegni ogni notte la stuzzichi, vedi che i corni non ti rimette. Devi essere sempre in avvantaggiato. Ma sono cavolate, Grazia. Sono cavolate quelle che dici. Ci sono altre cose. Che magari, cosa ne so, lui esce troppo spesso. E una volta, e due volte, e rientra magari un'ora più tardi. Non è quello, no. Non esisti che è il problema, fidati. Capito? Un uomo per andare a cercare altre donne vuol dire non essere una donna, a meno che non sia un porco. Anche. Vuol dire che... cosa... la sua donna non gli scende più, cioè non gli fa più. E allora, ma può essere anche lì, che l'uomo, il suo uomo non le va più e va in cerca di altri. Magari perché non c'ha iniziative nuove, è sempre la stessa minestra, e allora l'amore è bello farlo completo, caro bello. E tondo. Ma anche le frequentazioni, secondo in che locali vai, io so storie che... E questo c'era con la moglie, lui se ne andava nei locali, capito, quei locali un po' stranini, c'erano le donnine, che vanno a volte, e va due volte, e poi me l'ha perdonato più volte, adesso questo qua si ritrova da solo, continua a stare solo, Dai, è normale, io già sono 22 anni che sono tranquillo, visto hai. Quando abitavo in via San Donato, già lo San Luca, quante ne ho conosciuto di quelle? Ma parecchi ne ho conosciuto. Di figura di tu. Io grazie a Dio sono 22 anni che convivo e sono sempre tranquillo. Cioè inutile sposarsi, non ne vale neanche la pena. Quando uno si sposa, la prima cosa che succede è che si mettono che si divorzia, di cosa è quello, anche per cazzate. Invece quando sei bello, tranquillo, ognuno sceglie il corso suo, nel caso ti devi lasciare, boh, non succede nulla, non ti azzuffi, non devi andare con gli avvocati, spendere i soldi, hai capito? Si va avanti così, no, la firma non dice nulla ormai, capito? Anche i preti sono incazzati per quello, non fanno più soldi. Cos'è il problema, grazie? Secondo quella che trovi, che sembra una donna, è maschio. E finché non tocchi ferro, non sei vutidomi. A me mi è capitata una cosa del genere. Io pigliavo per il culo agli altri, è capitato anche a me. A me non mi è capitato in discoteca, a me mi è capitato nell'appartamento di fronte, questa qui. Anzi, questo qui. Che la verità sembrava una donna. Voce, tutto. Mi ha invitato a bere la birra a casa. Avevo avuto 3-4 bicchieri, non so che cazzo ci ha messo dentro la birra e mi ha braccato. Quando sono arrivato al, come si chiama, giù, ti sto dicendo, guarda, mi è passata l'embriaghia, a giubilato di bene, sono cuvuggito, sono stato 5 giorni senza uscire di casa. Hai capito? La vergogna che ne avevo, no, non la vergogna, da ricolata che ho preso, te lo sto dicendo, mi cercava, gli ho detto non ci sono, digli, digli che non ci sono, si muore, ho detto. E tu dici, questo l'ho detto, non mi cura più a me. Prova sempre. Prova con se zaino un attimo. Sì, gomito sì. Con il cazzo solo. È vero. Ehi, buonasera. Poco fa l'ho seduto in la cadrea, no? E mi si è addormentato il popò. E dice Marina che lo sentivo arrossare. È vero. Mio mio, e dice che stava arrossando. Mi ha detto che era, come ti dici, era, non russando, no, a cosa lui, era mi ha tuncimari. E ogni tanto si mette l'acqua, si mette, in modo da sollevare, capito, innaffiare. Uiuia, aspetta che c'era Giuseppe, ci sei ancora? E là ci sono, sto ascoltando. Ehi, mica c'è Luca, Graziano. E poi Gio Maria. Già. Buonasera a tutti, Bene, che ce li ha, grazie a il bene a tutti. A chi vi dà? E lo dando! È vero, è vero, è vero! Oh, ma acqua ne avete a casa? Mi sta cominciando a venire adesso, La massa che ne rivaria, di che ha inventati! Per carità! Prima la scusa che acqua non ce n'era, ne ha fatto più di questi giorni, a voglia! Io penso che qualche litro di acqua nel coso l'ha messa, Bah, nel bidiginzo! Ma, Luca, tanto l'acqua non la puoi utilizzare perché tanto non è combustibile, hai capito? C'è la ruggine e dunque è inutile che la usi. Ah, non è combustibile, grazie. Thank you. mi affitti. No, che Giuseppe stava dicendo che non è combustibile l'acqua. Non è buona per l'effetto del coso, Luca, di mangiare, capito? Tutta quanta cazzo, ne esce nel fuoco di calcare, quella roba là e tutto quanto. Non è buona, hai capito? C'è scritto anche nel giornale oggi che l'acqua del monte e tutto quanto non è potabile, hai capito? L'acqua del monte? Non è potabile. No, c'è scritto, io l'ho detto su internet, nel telefono, che era potabile l'acqua del monte. No, io ho guardato nel tablet, l'acqua ha detto che non è non è potabile, non è potabile. Adesso hanno interrotto anche lì a cosa? San Giuseppe, hanno fatto un fosso grande e anche da lì hanno detto che l'acqua non è più potabile, hai capito? Si fanno gli esami. Ah, per carità, ma anche qua già arriva un po' così l'acqua. Lo so, e lo so, invece la c'è la potabile, vero grazie? Non è potabile ancora, catta io ti sto dicendo, catta, ma catta l'altro giorno, ho messo l'acqua che sembrava pulita, no? Ho riempito la vasca da bagno, se tu vedi il calcare e la terra che c'è in sotto attaccata alla vasca, non hanno idea. Sembra pulita, invece tutta tutto calcare. No, non è calcare, Giovarisse, è tutta... Quando fanno, cioè si rompe un tubo, poi quell'acqua lì va a finire, si mischia con la terra, mi fa, per carità. L'altro giorno era gialla, non so vuol dire gialla qua. E tu che cosa ti virava la faccia, ti viene infezione la faccia? No, io ripeto, noi la stiamo comprando l'acqua per cucinare, è da più di 2 anni che noi stiamo comprando l'acqua per cucinare, no, solo per lavare così e basta, ma anche lavare i piatti, che certe volte fa schifo quell'acqua del rubinetto, fa schifo, dobbiamo risciacquare con l'acqua che compriamo, perché non è possibile. Noi stiamo andando e peggiorando con quest'acqua, però io se la fanno pagare salata, Bravo Gio Maria, l'hai detto bene, se la fanno pagare salata, questa è, lasciamo perdere, non tocchiamo quel tasto, perché io sono salito 10 volte, 10, e parlare con le persone ignoranti, come questa tipa che c'è lì, non si è spiegata bene, prima mi diceva una cosa, poi mi diceva un'altra, ha detto ma scusi, ma chi si deve prendere per il culo, gli ho detto, così davanti a tutti, mi non si permetta a parlarmi, no io mi permetto sì, ma quanto viene 10 volte qua, perché cosa? Se non, lei il suo lavoro non lo sa fare, perché prima mi dice una cosa e poi me ne dice un'altra, cioè non è, tu ti rendi conto Gio Mario, non vanno d'accordo secondo me lì dentro, tra uno e l'altro, se ne bucano i luci, perché questa qua mi ha detto una cosa, vado dall'altra e me ne ha detto un'altra ancora, guarda, meno male che giorno mi sono trattenuto, Perché non si sa, uno dice cosa all'altro, capito? Uno dice quell'altro, e quello sa tutto, sa, e lo sa, e ne sa più poco di quell'altra, e sono così, capito? E loro fanno quello che dicono i superiori, capito? E quello è il fatto, e loro non hanno colpa. Sono i superiori che si devono interessare a queste cose. Purtroppo succedono tante cose per questo motivo, capitolo? Sì, non lo metto in dubbio, ma dimmi le cose come stanno. Lui mi fai venire e mi chiede una cosa, poi ritorno e me ne chiedi un'altra ancora. Ma perché non me l'hai chiesto prima? Visto che c'è il computer lì, il computer risulta tutto. Poi, guarda, a quanto ha detto lei, quella di Abanova, che mia madre, secondo lei, non risiede lì dove è adesso. Ma lei si è macca, Giuditto, lei è scema, risulta e come, guardi le bollette che sono a nome suo, allucinate, mi ha chiesto anche il contratto della locazione. Ma loro fanno quello che dicono i cabissoni, capito? Devono fare quelli con i cabistoni, quello è fatto. Certe volte si già fugliano, loro non sanno più nemmeno rispondere, rispondono così alla me ne frego. E ma secondo te, Graziano, ti ha assinato a fare queste cose. Grazie, baci tu! Thank you. i catastali, ma mia madre risultava lì. Risultava, capito, Gio Marì? E cosa c'è? Nel computer c'è tutto. Infatti l'altra collega adesso mi ha detto, guarda, sua madre risulta qua, è a nome suo. E mi hanno chiesto i dati catastali della casa. Se no non potevano procedere. Comprate l'acqua San Martino. Io. Ma chi c'era? Che Leoncino c'era? Ehi. Grazie. Anche la Tarino. Chi c'è la Tarina? Sì, la Tarina c'è. A tratti, a qualcuno senta a tratti, a Giuseppe senta a tratti. Adesso attacco la 27. Era ora. Così sentiamo a tutti, da. Attacchiamo la 27. Era ora. Giù che giù. Giuseppe. Ti manca? Ah, già sei loghi ancora. Io so che sono in ascolto. Ti ha chiamato Gio Maria. Già l'ho sentito che mi ha chiamato. Ma non l'hai risposto però. No. Tu sei un sciabuco qui. Grazie caro, tu sai che mi cammi il nervo. E già lo sai il motivo? Sì amore, lo so amore mio. Tu... Sì, una proboscide, sì. La proboscide ti arriva dietro. Comunque qualcuno stamattina ti ha dato la benedizione. Sì, sicuro. Ha detto quando crepi. Sì. Grazie. Adesso come è andato prima. Che la morte sia con voi e tutti quelli di questo canale che vi accompagna la morte. Allora, adesso come è andato prima, diceva quello, ma diceva sempre, dice quando muori tu prima, no, oh, ti preoccupare, adesso come è andato prima, quello che hai chiamato prima in pratica, mi. Ui. Adesso hanno messo fuoco alla Santa Maria, cazzo, all'altra cosa bella, all'altra casino c'è in quel posto, cazzo. Tutti abusivi. Uno peggio dell'altro, uno denuncia all'altro, adesso hanno sequestrato tutto, era ora, comune. Che se lo va a ricordare, è diventato un troiaio quel posto, cazzo. Tutti abusivi, ognuno si piglia, tipo cosa amico, appartamenti, trovavi il posto, pigliavi, ti filavi dentro, ci mettevi la roba tua, non ti toccava più nessuno. Tutto pieno di negri era, bu. Ma come hanno sequestrato a quell'altro posto? Non l'ho più visto, l'ho sentito. Secondo me quello l'hanno denunciato e sta passando casini per quell'incendio che è successo. Sono sicuro che l'hanno denunciato a lui. Speriamo, almeno finisce di fare di farsi illusioni, è capito. E lì è un casino, mi davvero. Adesso che hanno messo fuoco in quel coso lì... sono sicuro che stanno cercando, cioè stanno controllando a tutti lì, uno per uno, perché non è possibile lì, in quel posto lì, uno denuncia l'altro, tutti abusivi, chi faceva l'autolavaggio, chi si metteva a riparare, a fare il meccanico, quell'altro che prendeva la roba dalla mondezza e faceva il rame. Tutti abusivi, allora vai, un troiaio da anch'io. Speriamo che l'abbiano sequestrato tutto, che non ci possa entrare più nessuno. Allora così lampano tutto vola, ne buttano tutto giù e fanno una cosa come si deve. Perché non è possibile, se no qualche giorno vedrà che lì si fanno la camera letto i negri, quelli che ci sono in giro e vanno lì a abitare con i letti, con le sdraio lì. No, deve, il comune ha deciso, quello lì adesso chiude tutto e fa dei mini, mini appartamenti tipo case popolari. Ma dove la 26 ascendente? Giuseppe non c'era la 27, non può accendere niente Giuseppe, perché l'antenna non funziona. Accendete la 27, buona 27 a tutti. Già sono qua, non ti lascio da solo, sta tranquillo. Purtroppo è così. Andate di casino in quel posto, cazzo. Negri, tutti facendo i chi meccanico, tutto in nero, cazzo. Quell'altro che denunciava tutti, cazzo. Perché chi pigliava l'acqua in nero, eccetera, eccetera. E avevano promesso che li mettevano fuoco alla macchina. E Barea va. Ci sarà un bel casino in quel posto lì, te lo dico io. Secondo me li chiudono tutto e non entra più manco un cane di Valento. Li butteranno tutto in terra e faranno un bel parcheggio per il pullman. Devono fare il coso, devono fare Antonio. Il coso lì se l'ha giudicata l'acqua, hai capito? Adesso faranno, buttando tutto quanto giù e il pullman, faranno i parcheggi per il pullman e dunque da lì partono per lì via Padre Zirano e partono per dove la destinazione, hai capito? Partono direttamente da lì. E infatti, speriamo che facciamo così. Dove c'era l'ex mercato autofruttico, lo sto dicendomi. Pilumo, già lo sai anche tu. Grazie. Lì sembra cazzo un togliaio, sembra che sia il posto degli zingari. Uno denuncia all'altro, si mettono fuoco uno con l'altro, dispetti. Sì che l'altro giorno sono tipo in pompina, nel biliardo mi pare che si è dato tutto. Era ora, cazzo. Non si poteva vedere una cosa del genere, guarda. Tutti in nero lì lavorando. Schifo, cazzo, pieno di tuppi. Macchine, tutte le macchine rubate, tutti gli sportelli, di tutto ci trovi là dentro, va. Ci mancherebbe solo che ci trovi un po' cocaina lì e siamo a posto. Un bel coso di spaccio, mi cancello, in modo non ci può entrare. Adesso vado, mi scaldo da piccola pesca e me la mangio. Già lo so già, e chi vede un falegname, chi su qualcosa, molto circolatori, molto seghe, c'è finita poco già, i padroni, i marini, pariani, a vanno non so che stanno questo fuori a tutti. Già lo so già, ce l'ho andato qualche volta. E io ce l'ho andato parecchie volte, ma te lo sto dicendo, era una merda quel posto lì. Tutti abusivi, erano tutti, non c'era uno che non abusiva, addirittura uno aveva 4-5 locali, prendeva, se li affittava, si pigliava i soldi in nero, ma vi la vai, boh, una qua, se passa la finanza lì qualche giorno verrai, si lampa, se questa tutto ci butta tutto in terra, e frega stai a quello della sovrintendenza dei beni culturali, ah ce la fai, buttaci tutto in terra, cosa ti mi vale tutta quella mondezza? E infatti potrebbero buttarne tutto e farlo lì il parcheggio dei Puma e con una tettoia come ti ci devi, invece che ti poveracci figliare di Puma ci stanno lampati a trone a lampa la becco in mezzo alla carriera come te ne cani fanno schifo e chi dà lo che vi arrivano cosa di Puma non l'hanno infatti per la questione che lì devono scappare, ci sono cisterne di gas che hanno rivocato un poco parte lì e da poi l'albo si dà e chi non lo fa di nichivi invece di parcheggiare in mezzo alla strada le pulma e lo fa di nichivi 30. Ma è il problema che ci sono i beni culturali, capito? Quella palazzina vecchia che sta crollando, quella, capito, vale un sacco di soldi, vale. Se invece l'avevo buttata giù di lì, dove c'è Pinumo, è costruito qualche cosa come si deve, altro che beni culturali sarebbe stato. Per carità, di tutto di più ci abbiamo a Sassari, guarda. si vedono palazzine vecchie, per forza devi ricostruirle come prima. Ma secondo te uno che ha una palazzina del genere c'ha soldi per farla ricostruire? Ma non se ne parla nemmeno, manco fa 100 anni. L'unica cosa è buttare giù tutto e fare qualche altra cosa. In tempo di guerra vaziani così, non è che pensavano ai beni culturali, no? Niente che affassai se vedeva una palazzina in terra. Ah, senti, ultimo detto, luci chi sa affacciare dagli vecchi, picandù, per imboccare sotto la galleria. Sai con che ne appassi in dritto, avrà vedere che dici che ha la tutta appassi in dritto, se tenni di vulcare tutto. Non vedi che ne c'è in tutti. Non ho preso una via la parte di tutto, che cazzo è bene cultura. Ehi, per carità. E appunto per quello, io avrei buttato tutto quanto in terra, avrei buttato, costruito qualcosa di buono lì, nuovo, parcheggio, al limite un bel supermercato, cioè lì ci puoi fare qualsiasi cosa, ci puoi fare, perché è grande, qualcosa di più nuovo. Lì dove c'era il mercato frutticolo, per dire, avrei fatto un parcheggio, ben fatto. E poi dall'altra parte aveva fatto un bel supermercato. Tutti sarebbero andati lì, quelli lì del centro storico, a fare la spesa. Non costa nulla fare la spesa di lì, a piedi. Non è che li venga male. Oppure farla dove c'era il coso del tram prima, per dire. Fare lì un bel centro commerciale, grande, come si deve. O... neanche gli farlo buttare giù quel cavolo di hotel, figurati. Che ne staccare da pezzi. Chi sulla lì giusto, sarrate, cosa la sarrate da qua? A cosa lo fai appartamenti e l'affitti? E chi? Non si lo fa in appartamento e rivendere l'appartamento. Invece la lì sarrate 2 anni, di vaccone, di bacio. L'unico di sarrone anni fa. E capo si devo fare lì, capo la sì. Cos'è che devi fare? A pisare della sci, a sciare, devo fare la pista del sci, de sciare. Se abbiamo fatto i gatti, che vivono i gatti, niente, no, non la pista di scia, per carità. Poi la pista di scia. E gli proprio andava male, in periferia va bene, vedi, la potrebbero fare a piazzare segni dove mettono quella specie di circo. E lì ci sta, va bene, dato che c'è il palazzetto dello sport, lì o no? Lasciali fare, se lo fanno peggio. Tutti i bambagnassi di là, fatti, figliani di là, dalla regione, si rimangiano e non fanno niente. Fate nella vita di cominciare e non finire mai, altri di là se ne mangia. Tu devi fare un coso, dovresti fare il sindaco a Sassari, grazie. Almeno avresti fatto fare un bel cose, invece no, non ti voglio là allora. Io l'avrei promosso a coso, sindaco delle 5 stalle, non 5 stelle, 5 stalle. Avrebbe governato bene, graziano, Senz'altro, io il voto gli avevo dato, subito. Hai visto che è entrato al Senato, alla Camera, il pastore, quello famoso, quello che faceva casino per i pastori, quello è entrato, hai visto un macco, gas? Prega il macco, si soga in casa, grattore. Quello, adesso manda una fanculo i pastori, gli amici suoi. E non gliene frega nulla dei pastori della zona di Nuoro, di Stava e Cagliari. Ce l'hanno mandato loro, tu vedrai che non gli fa proprio niente, per le quote latte e cose del genere. Aveva fatto un sacco di casino, ti ricordi quel tipo lì che andava in televisione, andava a Cagliari, è andato anche a Roma a piazzare il casino. Adesso entra alla Camera del Senato, vedrai che non conosce più nessuno, te lo dico io. La volta che c'è la patrona. È chiaro che fa il numero, vuole fare solo il numero adesso e basta, e avrei messo a Graziano direttamente. Bene, salvi te, se tu fossi lì, grazie. Ma che si sente, non l'ha accesa? ci sono con 3 ore, già mesi, te la mi risponde, e invece si fa vita di occhi, boh! Stavo rispondendo a Antonello, ho detto, c'è anche il debito esistente, anche Antonello. Mamma dice, mi devo uscire, non no! E ci sei tornato io, che dico lei di Bino Pizzisetti, per carità, e vabbè, fede che ci vuoi, là, io mi assento, sono sopra 27, dopo rientro a Torino. Sì, d'accordo, non c'è problema, io sono qua all'ascolto, non c'è fate quello che volete, non c'è problema, non succede nulla. Adesso appena migliora il tempo con Giuseppe, sistemiamo questa antenna, almeno entra anche in 27 anche lui, tutti i giorni. Io magnetica non ne ho per la 27, sono lei a voi prestata, per il baracchino, tanto per parlare in casa sua, non naccio. Ma col dipolo c'ho. Sono di aver costruito, almeno se è uscito col dipolo. E poi era con un tubo, un pezzo di tubo di antenna. Ti fa una boomerang. E ti sembra così facile a fargli la boomerang? Oh, yeah. Per carità, non è così facile come pensi tu, no? Non ne ho cabalistico, se non avrei fatto il dipolo. Col dipolo 2,64 per parte avrebbe parlato tranquillamente, avrebbe tagliato il cavo della B27L, gli avrebbe messo il piede e avrebbe parlato tranquillo. Non ne ha, no, Giuseppe. Se l'avesse avuto l'avrebbe già fatto. Aspetta, rispondo a Gian Maria. D'accordo. E beh, Giuseppe. E beh. È all'ombra. C'ho un mal di collo ancora l'altro giorno, cazzo. Non riesco a farmelo passare qua. Ci vuole una supposta di carne. Ah, mi ha messo il coso anche, il Voltale, ma non mi ha fatto un tubo. Niente da fare. Adesso vediamo, domani vado al medico, se continua così vado al medico, perché è leggermente gonfio in un fianco, capito? Forse c'è qualche infiammazione, cosa cazzo ne so io. Adesso vediamo. Non è che ti appunto qualche animale, no? Invece. No, te sto dicendo, ero sudato, sono andato allo spino, ho fatto la spesa, non c'avevo, prima di andare io non c'avevo niente. Ho fatto la spesa, sono rimasto sudato lì, sono rimasto al fratello, poi quando sono uscito fuori al circolo ho preso e non mi sono chiuso il giubbotto, quindi sudato mi ha preso in pieno il collo, capito? Perché stavo aspettando il tram, passava in 4-5 minuti. A proposito del giubbotto, guarda che lo spinge un bel giubbotto, non ne costa neanche molto, 20 euro. Ne ho giubbotti, a voglia ne ho, non me ne vuoto, me ne vuoto nulla. Ne voglio comprare, guarda, un golfo a collo alto, se no una felpa a collo alto mi prendo. Dai cinesi, se la trovo. Questa che ho comprato Giovanna non serve a nulla. Entra l'aria dentro, sembra un coso, sembra cazzo, non ne vale neanche la pena. Ho capito. Secondo me muovo il collo. Mi fa male o al centro o nel fianco, ho capito? È un bel casino. Un po' di cosa, pomata oppure qualche antibiotico ci vuole? Stamattina è il medico, sono andato di là, devo andare al medico. Ci vado domani sera adesso, domani è venerdì. Ci vado, mi faccio controllare, mi faccio dare un antibiotico, quello che è. Adesso vediamo un poco. Ho già 3 giorni questa storia qua, questo collo. Mi ho messo di volta, mi ho messo quella cosa lì che vendono allo spin, che scalda, no? Nulla da fare, non c'è stato niente da fare. Sempre mal di collo c'ho. Sembra che ci sia il muscolo accavallato, mi fa male quando muovo il braccio, capito? Mi fa male anche il collo addirittura. Anche cosa vuol dire, non so cosa dirti. Ho fatto strappo, ho fatto qualche stiramento, cosa ne so. Oh, Infatti mi sono andato che stava piovendo quel giorno lì, capito? Ho fatto la spesa, stava piovendo. E poi quando ero sudato, sono rimasto sudato, non sono entrato subito a casa, mi sono bevuto un paio di birre, l'altro fratello, dopo che ho preso il tram alle 9:15 e sono andato via. Finché ero là non mi faceva tanto male, la verità mi faceva male appena appena, ma domani mattina, a freddo. A freddo, a caldo non senti nulla. L'indomani che senti il dolore che viene bene. E poi la mattina devo andare a prendere sigarette, cose del genere, quindi prendo freddo, capito? È inutile. Anche stamattina c'era freschetto quando sono uscito. Prima stava bene, verso mezzogiorno, le 11, c'era caldo, c'era il sole, poi è cominciato a essere nuvoloso e questo venticello strano. Abbiamo messo del tempo. Adesso fra un paio di giorni fa caldo, fa una bella giornata e ci sono 21 mi sembra, o 26 gradi, quindi figurati tu in che condizioni siamo. Meglio così. Ma poi arriva il ghiaccio però, a meno 5, meno 15. E come fai a sistemarti? Basta stare nel letto, e cazzo vedrai che freddo non è piglio. Il letto è peggio. Il letto è peggio, perché ti viene mal di gambe. Guarda, io neanche la stufa sto usandomi a scaldarmi in camera, figurati, anche se ce l'ho me. Perché quando usi la stufa ti fa peggio. Ti fa la condensa, sembra che ti stia scaldando, ma invece è peggio. Ho capito. Oi. Vabbè dai, ci sentiamo dopo, vado a fare merenda adesso. Vabbè. Io adesso vado a bermi una birretta una mattina e poi vado allo speaker, perché cazzo stamattina sono andato a fare la spesa e ho comprato di tutto tranne che il formaggio, ragazzi. Me ne sono dimenticato, la cosa più importante me la sono dimenticata, sto diventando incoglionito del tutto, ragazzi. Senza la cosa, il formaggio per la pasta lo posso fare, la pasta è bello, è quello. Di una cosa, ma tu non hai grattugia? Sì, c'è la grattugia, ma che c'entra, il formaggio quello con la grattugia me lo sono magnato. Se no c'avevo tre pacchi di quello, come si dice, non è quello da padano, l'altro, quello sardo, piccante. Non è, quando a te ti danno il grana o l'altro formaggio, te ne grattugi un po', te le metti in busta, in bustine, e te le metti in frigo, a meno cazzo sei scuro che ce l'hai, capito? Oh, ma è bello che l'ho mangiato io e Simona, abbiamo mangiato, l'ho fatto a fettine piccole, capito? L'ho mangiato in mezzo al panino, non ci ho pensato a quello. E vabbè, adesso vado, mi mangio mezza boccaccina con la pancetta compatta, hai capito? Un veraccio. Perché non ti metti un po' di melanzane, un po' di coso, di... Cosa ti posso dire? Una bella tortina al limone. E a galera, cazzo, melanzane, quello che non mi piace. Mettiti un po' di cioccolato, c'è l'avvento cioccolato là, lo spì. Non saranno, per cioccolato, cazzo, ma il bagno la faccio, è la cioccolata. Vabbè, ti fa di avere cioccolato, no? Dillo a Tommy a vedere se gli fa di avea. Dagli mezzo pacco di quelle, no, di quel cioccolato svizzero, mi. Vabbè dai, a più tardi, dai, salutami gli altri, dai. Ehi, d'accordo, ok, ciao. Marchisio, Marchisio. Ciao Mari. Etto, buonasera. Sì, buonasera, Cata, il desilinfusio. C'era Antonello, c'era Luca, c'era Luca del Monte, c'era Graziano, c'era... dunque, chi altro c'era? Era pieno il canale, però dopo si sono assentati e allora... sulla 27, stavamo parlando in 27, e infatti c'era Marco, c'era Lattarino, c'era... chi altro c'era? Insomma, ce n'erano parecchi, però ognuno a uno si sono assentati, adesso c'è coso. Marco e Natalino chiacchierando e io stavo ascoltando perché avevano un discorso magari un po' lunghetto e stavo ascoltandomi, però ho sentito a te, sono passato qua. Chiatta, comunque buonasera. Perché c'era anche Graziano, c'è, mi pare, che è gentilissimo. Sì, Graziano pure c'era, ma siccome c'hanno sono dei discorsi un po' lunghetti e magari se eravamo in quel ricchi, anche Graziano, non l'hanno chiamato perché stavano chiacchierando di un certo discorso e noi stavamo ascoltando solo, capito? Sì, ho capito, ci sono ancora due, ci sono, Marco e un altro c'è. E coso, e non mi ha messo di giamma. No, ma ho sentito a Graziano qua adesso. Vediamo un po', se c'è lo chiamiamo in causa, Graziano. No, non risponde, Udì, che stava ascoltando là. Boh, non lo saccio. Andave, chietta. È il discorso regionale. Vabbè, io, veramente io ho detto, rientro subito. Poi sono rientrato, però allora avevo questi discorsi e stavo ascoltando, non è più nemmeno, capito? Senza nessun coso. Però stavo ascoltando senza parlare, capito? Poi c'era solo qua e chiacchierate. Però siccome il discorso era un po' lunghetto e mi sono stato zitto, non gli ho detto che ci sono anch'io, però quando c'erano certi discorsi, se uno se può rimanere in quel ricchi, se è meglio ancora, no? Infatti, ed è così. Ma, no, io sono entrato tardi perché c'era mia figlia ancora qua. E se ne è andata Danzura, se ne è andata. Ah, c'è gente, è chiaro che da me ogni tanto viene qualcuno, suonano, o mi riposi, o mia nuora, o mie figlie, anche da me è così, questa porta sembra il portinaio io, gatta, entra, esci, vai a aprire, chiudi, capito? E mi devo assentare per forza, forza maggiore, e se posso rimango. Ma se no vado a fare il dovere che devo fare, capito? E penso che ci sono anche gli altri così. Infatti, prima il dovere e poi il piacere. Esatto, infatti, è proprio così. Tanto a chiacchierare, la troviamo il momento giusto per chiacchierare, quando non è possibile. È bello anche ascoltare, non è che uno deve stare ore e ore chiacchierando. Come Graziano, se le dai corda e sta tutta la sera, E non se la fia così tanto facilmente, io no magari, a altri tempi magari mi allungavo un po' di più, però adesso mi sacco subito, capito, per cui trovo la scusa e mi fermo, magari dopo 10 minuti, un quarto d'ora rientro se è possibile, ma se no se c'è gente chiudo e me ne vado, capito. Fai bene Giomarì. Va bene, anch'io sono così, e quando vedo che c'è cosa lunga, anch'io me ne vado in quelli. Ma è facile, ma è normale, no? Secondo me è normale. Poi, io quando sento magari un certo discorso che fra due persone stanno chiacchierando, magari io li lascio chiacchierare. Se mi chiamo entro, ma se no magari rimango in quel ricchi, sì, ascolto e mi fa bene ugualmente, non è che non dico niente perché non mi avete, no, assolutamente, no, l'ho fatto, ormai ho pazienza, dato le spalle un po' larghe io, capito? Andavi, anda, schietta, le spalle già sono larghe, poi va bene. Già fa andare bene così. Lo facciamo andare bene, tu, hai ragione. Graziano! Io Mari! Sì, vedi, ogni tanto le sbucca qualcuno, tu. Dammi tu sì! Sono stato a fare la spesa io, Gio Mari, dai. Sono rientrato adesso. Infatti ho visto la radio che si illuminava di verde. Ho detto, va, se qualcuno sta trasmettendo. Eccoci, Camittore. Stavo ascoltando il 27 e ha chiamato Torres, è entrato a rispondere, capito? Speriamo che abbia speso tutti i soldi tu, cacciala. Lasciala pure a domani questi soldi, lo spendo tutta stasera. Io ho speso 629 milioni di euro. Addirittura. milioni di euro, caspita. E chi li conosce quei soldi così tanto, gatto? Ah, io non ne conosco. Comunque, buonasera, Luca. Ah, io non ne conosco. Io conosco sino a mille, boh. Ma pensavo più tranquilli, penso io. Una persona quando li ha pochi mi sembra più tranquilli di quelli che ne hanno molti, Perché quelli che ne ha molto, sa, penso che da solo abbia paura di uscire. Infatti. Canna un bene, canna poco. E andate, a noi si passa su Dante e boh. E l'importanza che si stia avanti, se lo puoi mangiare tutti i giorni il carne, vuol dire, mangi minestra a patate o minestra al latte, va bene lo stesso. L'importanza è che il sacchetto sia sempre, no, pieno pieno, almeno a metà e si tira avanti. Infatti è così, l'importante è tirare avanti. E appena rabbanza batti la danza, che sennò andiamo male. E allora, Luca stasera è andato a spendersi tutti i soldi che aveva, boh. No, la spesa ce l'ha per tutta la settimana, così è lui. Più o meno, ma già compriamo, diciamo, ogni tanto, dai, ogni paio di giorni la frutta, la verdura, capito? Ogni tanto. E abbiamo preso la roba più, insomma. È roba giornaliera, dai. Ma salotte, no? Salotte deve andare a fare festa la tua amica, no? Adesso se gli presti 500 euro ci va a fare la festa. L'ho sentita sul tuo sottofondo. Maria, io salotte bisogna andare a fare almeno al cenone, dai. Già Maria, già ci facciamo la festa al cenone, non ti preoccupare. Lo credo bene, certo, senza mangiare non ci sta nessuno. Cosa? Bella bistecca c'ho io, salotte, un'insalata. A te cosa vuoi di più? Io se non sai cosa mangiare, boh. Lo so, mi torna magari stanotte esce. Ciao Otto. Ah, salotte ti fa l'uscita, così. Sì, a piglia freddo. Magari si dà, che si dà. Ma mai dovevo delle visore, mi seguo come sono ondici. Che è scita. Ormai è andato il gioco. Io l'unica uscita che posso fare è uscire di capo e buh. Un attimino to. Sì, Giomari. No, che ti pare, esci di capo no, la testa mia già funziona come si deve. No, non il voto di che così. Sono tranquillo. Beato, ma vedo delle visori, si vede la partita, che partita me la baido. Metà minuti. Quindi, è allora. Faccio così. Ah, vabbè, nel senso buono, no? Nel senso, no, pure io preferisco, siccome quella nuova gioventù, quella gente che c'è in giro, fuori di capo, non si può neanche il scimito, a chi sono i mati, capito? Mari, la greffetta, la classica greffetta che magari se dicono qualcosa, tutti in giro a rispondergli, capito? E allora loro iniziano a rompere, e sono anche armati, non comprare i bici, comprare andare a fare il peso, di fare il peso, stare in casa, tranquillo e sereno, e vivi alla grande. Sì, ma te che sei di su Manzano che ha già avuto, Uriani era bicicletta, Uriani. Ha detto, se non se ne camminava a andare, si acciappava una cappa a terra. Torre. Sì, io già mai sono qua. Ho chiuso là, se non tocca stare con gli apparecchi accesi qua. E disturba una cosa all'altro, capito? Allora ho chiuso la 27, dai. Infatti io mi l'ho abbassata, perché sto parlando qua, che se no non intendo né uno né l'altro. Ma infatti, a stare con gli apparecchi che a volume alzato, si interrompe, ecco. Non senti bene uno, non senti bene l'altro. Allora uno basta spegnere e ciavolo l'altro. E così ho fatto. Ok. Luca ancora c'è? Sì, sono qua, Giomari. Chiara Graziano. Sì, ma Graziano, mi sa che sei pacchendi Lugoso, non ti diciamo, Lugranchio. Ah, e lui se sta cucinando, no? Stasera non... Oh, no, no. Domani cuciniamo, ma stanotte no. Oh, c'ho le fettine del bistecche già pronti, bene condite. Dopo cominciamo a arrostire, ciao. E ciniamo così con l'insalata e via per stanotte. E domani penseremo a qualche cos'altro, dai. Sì, no, già andava, sì, una bistecchina. Io ieri ho preso la capocollo lì da Garigiù, buono, eh. E beh, speriamo che sia assaporita almeno. Ma certe volte la trovi proprio scipida, proprio che non ti dà gusto nemmeno a mangiare, invece quando è assaporita, anche se è un po' duretto in testa, l'importante è che sia assaporita. No, io l'ho mangiata ieri, l'ha fatta con le patate, sia a pranzo che a cena. A pranzo l'ho cucinata in tegame così, l'ho anche un po' bruciacchiata, ma era buona. Praticamente tenera, dai. Non dico come il tonno, ma quasi, buona veramente. Buona con le patate, mi piace molto il pesce a spalla tagliato a pezzettini, che ha fatto con le patate, oppure tagliato a pezzettini e fatto soffriggere bene l'aglio, prosciutto, il peperoncino, mette le mezzapenne, e butti dentro, la fa rosolare bene, poi mangi, c'è sapore, io non ti dico niente. Come dice Graziano, buona resa e... Sì, avanti to. Ah, io non so cucinare. Io quando mi metto a mangiare le bistecche o capocollo è tutta una cosa diversa. E come le fai to? Sulla griglia, io mettevo i sivoziani, sulla griglia. Sì, vabbè, qua non è che vuoi fare. Cioè, alla fine, un po' di notte, cucinarli sulla griglia, un casino. Oppure nella bistecchiera, non fa. Ma comunque c'era buona, è tenera, è proprio buona, buona, buona. Si piazza Lugani, vai tranquillo, che vuol dire che era buona. Anche quella griglia elettrica, mia, che cavolo. Io carbone non lo posso mettere, la griglia elettrica c'ho, non lo faccio sulla griglia elettrica. O se so pizza di cavallo, magari... Certe volte la faccio con la griglia elettrica, certe volte me la faccio in tegame, e l'insalata tira a campare, e va bene lo stesso mio, o lui. Sì, sì, ma fai il fumo, se lo fai magari a pranzo va bene, ma di notte non va bene, ti tocca aprire tutto canto, fai il fumo e boh. Beh, l'odore io lo faccio in terrazzino, però l'odore entra, sembra così, ma entra, anche se chiude le porte, entra, certo, quando cuciniamo pesce che mi dà fastidio, mi dà molto fastidio l'odore del pesce, perché non esce tanto facilmente, o solo quando fai le uova così cucinate sul tegame, no? Madonna, quanto ritarda a uscire, anche se metti questi profumi, roba del genere, ritarda a uscire e mi rompe. Lo so, ma infatti non conviene, perché Marina c'ha la porta del terrazzo lì e entra un po' di freddo. Se cucina queste cose così deve aprire per forza, perché sennò è un casino, non puoi starci, No, no, meglio magari di... Quando le giornate sono belle, apri e poi cucina. L'altra volta avevo fatto le frittelle, carta giù fatto. C'era proprio, sai che l'olio è maledetto, e ha dovuto aprire, e rimane, ti infiaccheggi tutto, pure se ti fai una doccia di giambi, e ritorna in cucina, ti ritorna un fiaco di chissà che cotto. Ma è così, gli odori, sembra così, ma non esco facilmente. Poi perché si è a contatto, capito? E l'odore si attacca, certo. Ma non c'è altra cosa, vedi, l'estate, in primavera, come comincia a fare il tempo bello, quando fai la roba rossa me ne scendo in campagna io, E in campagna poi fa tutto la rossa che vuoi, che fumo, se ne va dappertutto, ma no. O se io quando fa la seminata, certo. Da lontano, a 2 chilometri c'è il fiago, però lì non ci rimane niente, capito? E l'unica soluzione è così, arrossire e poi arrossire. Solo in campagna lì non disturbia nessuno, ma in casa hanno poi, prima è tutto, che anche se chiude le finestre dal terrazzo entra lo stesso, entra sulle fessure delle porte, entra ore e ci rimane. Ti rimane, anche se tu butti queste cose che ci sono, ti rimane, ecco, ed è fastidioso, magari vedi una persona e senti questo odore, non va bene, ecco. Io lo so, vabbè, avanti, riprendi. Sì, aspetta che c'è mia figlia che mi sta parlando, già entro subito. Sì, queste cose di Giovanni, meglio in campagna, all'aperto, a voglia. L'unica è quella lì, io, noi in estate certe volte per cenare ce l'andiamo in campagna, siccome qua magari c'è molto caldo, lo ci riscendiamo in campagna, qui siamo roba rosso e per cui al fresco si cena tranquillo e non abbiamo problemi di niente, capito? Ma che volte facciamo così la sera? Ce ne scendiamo, quando ceniamo che abbiamo finito ci guardiamo un po' la TV e dopo quando ci stacchiamo ce ne saliamo, capito? A cenare molte volte scendiamo giù e poi ce ne saliamo. Non c'è altra cosa più bella, Giovanni, stare in campagna, al fresco, aria pura, ehi, soia, vedi, è bello così, è bello, non dico che lo fai ogni adì, però già si sta bene, soia, magari averci una casa in campagna, non molto lontano da qua, da Sassari, però stai tranquillo e sereno. Vabbè, ce l'ho io, ma abbastanza bello, dai, Luca già lo sa, sono 3 chilometri, c'è 400 metri, tutta asfaltata. Certo, se avrei avuto la casa sarebbe stato lì, ma a casa non ce l'ho, io ho 3 box in lamiera, però sono attrezzati, c'è una veranda grandissima dove ci sono i tavoli, c'è anche il BBQ, che posso metterci poi il maialetto dentro e arrostisce come niente, capito? Proprio sulla veranda. Le panche ci sono, si sa bene veramente. 40-50 persone ci stanno sulla veranda. E per cui c'è tutto, non manca niente, c'è tutto, c'è anche la televisione, c'è tutto. C'è l'acqua, c'è la luce, è così che è vero. Noi certe volte sediamo e la sera tardi dopo ce ne saliamo, capito? Sì, poi avrei anche ce l'hai il fruttetto, sì. Come? Ce l'hai il fruttetto. Sì, il fruttetto, il fruttetto è tutto fruttetto fatto il mio, non ne ho posso libero da mettere altre cose, no? Il mio è tutto fruttetto fatto, piante, tutto frutta da me, è tutto frutta. Quello che vuoi c'ho, di tutte le stagioni, capito? Adesso per esempio ci sono gli aranci, così che dopo vengono le albicocche, ci vengono i ciliegi, la pera, insomma c'è tutto, c'è la pesca, c'è tutto. Sì, anche il padre di Mariano c'ha quasi tutto, dai. Quelle mele piccoline sarde, ciliegie, c'è anche l'albero delle noci. Sono buone, però sbucciarle è un casino, viene un bel male, perché sono proprio quelle noci strane, ma il gusto sono buone, Poi fichi, limoni ce li ha proprio belli veramente, proprio profumati, tutto, adesso mi tra un po' crescono i carciofi, no, mi sa che a maggio, non lo so, poi ci regala belli, buoni, sono una squisitezza quei carciofi. Poi finocchi, uva, c'ha quasi tutto come te. Ma io c'ho tutto, te lo sto dicendo io, c'ho il fruttetto fatto, così che le piante sono già grandi, così che frutta ne danno. C'ho tutto, c'ho i fichi. Ma c'è pure la borghese, se vuoi mangiare, c'ho l'uva, c'ho aranci, c'ho susine, c'ho pere, c'ho mele, cosa che c'ho noci, anche la pianta delle noci c'ho, anche la pianta delle noci c'ho, e le noci ce le mangiamo lo stesso, nonostante che in mezzo ai pini, che la sta coricando e la sta ammassando i pini, capito? Però ce ne ho una pianta, e ce ne mangiamo lo stesso. Per cui c'ho tutto, Luca già l'ha visto, non mi manca niente, mi manca solo la voglia di lavorarci, perché la campagna è inutile che tu ce l'hai, se l'abbandoni è peggio della mombezza. Invece quando scendi in campagna mia tu non vedi niente, tu vedi solo tutto pulito, le piante, tranquillo. Puoi immaginare? Voi stappate la campagna, Giovanni, sono la zappi, le naffi, quella è la musica. O le curata, lo so, anche quella del padre di Marina già è abbastanza grande. 5.000 metri, vabbè, c'è la casa è di 200 metri quadri, mi sa che sia, più o meno, 190, c'è anche le noccioline, le susine quelle rotonde, chi si appera, le susine quelle, non so come si chiama, la susina murinca, la bruna murinca, come si chiama, vabbè. Qua c'è tutto, veramente tutto. Le albicocche sono, non le albicocche, le nespole, c'è queste nespole che sono, sembrano, ce le presenti quelle MLSA, così grandi, ma buone, proprio buone veramente. Le nespole io ne avevo 5 alberi, però una a una li ho dovuti eliminare. L'ultima che c'era, questa che ero sceso dall'albero una domenica, e c'erano tutti i miei figli, tutti i miei nipoti, tutti eravamo a pranzo lì in campagna e volevano un po' di nespoli. Certo, non ci salivo mai, perché c'era mio genero che le stava facendo tutte queste nespole belle che ci sono, più in alto mi fa quello di basso, va, otto, portami la scala. E sono sentito sopra l'albero, si è rotto il ramo e ci avevo sotto i piedi, ci sono scesa a testa in giù, sono stato quasi 4 mesi tutto fratturato, lo so io quello che ho passato. Allora ho buttato anche quella dove ne sono caduta all'alba, tutti a terra. Me ne era rimasto un albero solo, che piccolo ancora, che me l'aveva portato un amico da fuori, e l'avevo messo un vasetto, adesso è diventato un 3,5 metri, una cosa del genere, però quello non ci salgo sull'albero assolutamente, la faccio da terra, quelli di su faccio salire gli altri. E nespoli, rispetto, tutti li ho buttati e li ho tagliati, no, perché la maggior parte si annebbiava, capito? C'era tutta annevurata a rimanere, capito? E per cui l'ultimo albero che ho spacciato, quella era sana, era minuta, però era sana, era buonissima, saporita, però l'ho buttata in terra per quel motivo che ti ho detto. Ma il resto c'è tutto, pure le moniche non ti dico niente, io la presa a cassetti, immaginate, a cassetti, per dire, Luca ne approfitta ogni tanto quando c'è frutta, perché lui viene e mi aiuta a fare, a portare, a capire certe cose, chiedo a lui a farmela, capito, se c'è a pagare un altro, paga lui e me la fa lui, capito, perché io certe cose non le posso fare. E allora, già ce l'ho tutto, capito? Solo mi manca solo la casa, ecco. Manca solo la casa, soprattutto la casa in estate me ne è sceso giù, ok? Prima con il cavamo anche, perché in un box io ho la camera da letto, in un altro box c'è la cucina, e c'è il salottino anche con la televisione, tutto. La fronte alla veranda, per cui si sta veramente bene, però adesso a una certa età cosa fai? Poi chiamo in casa, no? In campagna, vieni minire a Malumpa. Lo so, non conveniva a Giomari unirle tutte assieme queste cose, queste cabine che hai, te lo fai proprio bene, fai un'unica entrata, no? Vabbè, ci sarà un po' di lavoro da fare, saldate bene, fate. Comunque le metti tutte e tre assieme, ti fai la camera da letto, poi ti fai la cosa, la cucina e poi il coso, la cameretta. Si potevano fare, però non lo faccio, la cabina di cucina ce l'ho completa, capito? C'è solo i mobili, ci sono il frigorifero, c'è altri mobili dove mettono uno scaffale e tutto, per cui ci sta la cucina completa. Invece, sulla grande lì c'è la cameretta da letto, la camera da letto, con l'armadio, due comodini, la TV, poi a fianco ho l'altra mezzata e lì ci ho fatto il salottino, che c'è la televisione, un mobile a letto, un divano e davanti c'ho la veranda grande, fuori dalla porta. C'ho la veranda grande dove il solito le sate mangiamo lì. In mezzo c'è una ventola per quando fa caldo e accendo la ventola e siamo benissimo. Sì, non andava, andava. È il 2007, dove quasi 3.000 metri. Quella di Don Patrimonio è andata su 5.000. Poi vabbè, adesso state piante a pomodori, zucchine, ciprioli, fagiolini, cose e basta. Ah, no, io non pianto più niente, no, prima piantavo fave, perché c'è un gradone dove piantavo le patate e le fave sempre. Ma le cornacchie e il mele me le mangiavano tutti, così che non ho piantato più niente, nulla no. Poi c'è solo un gradone, il resto è tutto piante, per cui sotto le piante non ci cresce niente, e per cui mi sta bene così. Poi più grande più lavoro c'è, mi sta bene anche così. E a voglia, 5.000 metri vogliono lavorarci, secondo me, e ci sono piante, lascia perdere, c'è da lavorare, sembra così, non riesce a recuperare ciò che ci rimette, capito? Però è una comunità, tu in assate, una domenica o sabato, ne scendi giù, si può coricare benissimo giù, capito? Coricavo, noi quando stavamo lavorando, quando eravamo in ferie, ci andavamo giù. Io e lei dopo la domenica scendevo i figli, i nipoti, e si mangiava tutti insieme, e si stava bene. Anche 15 giorni mi si stava giù, ti puoi immaginare. Però quando eravamo in ferie, adesso che siamo in pensione, no, o a dormirci, no, non ci dormiamo più noi. C'è tutto, però non ci dormiamo, no, no. Poi, hasta 80 anni, mi bongo, oh, io non sarà lui, no, è che è una gana, no, no. A chi sei guidato che sta sempre travagliando, a chi vedi travagliare, e per cui adesso no. Oh, fili minira. Lo so, in campagna c'è sempre da lavorare. Già lo so, mi grazie che mi ha mandato un video, va, su WhatsApp. Graziano, ti scendi, non so, nulla. E che video ti ha mandato? Sì, sono rientrato, Ecco, e beh, a proposito, sceso sì a guardare una campagna, to. No, no, non sono sceso, è che c'ho tempo, uia. Sono già impegnato a accompagnare a mia figliura, a voi e con l'altra, ui. Non riesco ai cinni, se ne che non si nanna non posso far nulla. Ah, ma venuta da Londra? Sì, ce l'ho qua, ce l'ho. Però mia, adesso stavo parlando con lì, sino a 5 minuti fa. Certo. No, non riesco a far nulla, non riesco a fare. Ehi, aspetta, attraverso 3 o 4 ore per andare a fare una visita. Sì, andare che non è che costi molto. Scendere, guardare. Certo, vedi, e dopo si vedrà in seguito, capito? Dove devi andare a vederla? Oh, vabbè. Se non puoi fare adesso, fai domani, non per dire no. E per cui va bene lo stesso. Certo, se uno è impegnato da una parte all'altra e non viene tanto bene. E anche io in questo periodo sono un po' impegnato la mattina, specialmente perché c'è mia figlia che si è fatta male a una gamba, e però devi andare per forza da questa signora tutti i giorni, e allora lei non può guidare. Allora devo andare sulla mattina e accompagnarla. Dopo a mezzogiorno devo andare a prenderla, a portarla a casa sua, e sto ancora passo tutta la mattina così. Sì, anch'io come ti gioco. Se mollo con la vista e per l'altra ritirano i buddi, accompagnarli, e uia. Guarda, non mi lasciano 5 minuti. Vabbè, ma capita, purtroppo. Posso anche voler fare almeno che tiene un po'. Anche se sei no, credo che sia annoiato, gatta, per carità, la noia se ci vuoi, gatta. non trovi niente, non trovi nessuno, a certe volte nemmeno accendi i baracchi, non trovi nessuno, da noi, e per cui meglio che ci siano questi svaghi così, diciamo svaghi, e per forza devi andare, per forza, così che bisogna tenersi sempre in movimento. Avanti bello bene, certo lo so io, cos'è che stavi combinando? Ma Rosa, ci faccio la stanotte? Stava entrata a paletta a preparare un po' di cosa qua. E infatti a Giusarrati chi dà, ma adesso già è fatto. Ma stavo dicendo, non ci va a stanotte, stanotte ci fa la cena, Leone, vai. No, quest'anno no, l'anno scorso è andato, quest'anno non mi è voluto andare, sino non me l'hanno immacudito questa, però non ci ho voluto andare lì, se no già doveva andare, ma non mi è voluto andare. Vuol dire che non aveva fatto, non ne ha voglia, fa bene, rimane in casa, fa bene nuovamente. Almeno vi faccio compagnia a vicenda. Oh, che nemmeno la mia, la mia no, no. Oh, se la sparo io lo si va lì. Che c'è? Qualche volta è andata, però non esce se non ci sono io, capito? Boh. Io le dico, vai, vai, no, ma non esce, non esce. E perché poi, magari, essendo giovani, già un altro discorso, ma noi siamo a cercare adesso, dove vai? Oh, non saranno. Mentre il Rosa è giovane ancora, è bella pippante, per cui può andare tranquilla. Però ci sono anche i periodi che una persona non si sente, non ci va. L'anno scorso è andata. Quest'anno non ha gana, non è andata. Pazienza, andare alla saluta. Ok, Torre, cercando ti stavi. Oh, ci sei nato io. A te trovo, dormi tu sì. No, qui il sogno. Hai visto quella foto di quel neonato, Luca, ti ho mandato? Sì, c'è anche Paoletta. Tutto io sono lì, no, quello è via col vento. Ma con WhatsApp l'hai fatto? Cosa? No, c'ho il vestito, c'ho. Ma con WhatsApp l'hai fatto, col programma WhatsApp. Ho capito. Hai visto il buffetto vestito da coniglietto? No, ma gli hai mandato il buffetto vestito da coniglietto. Non l'avevo mandato a me quella lì, mi sembra. No, a te ti ha mandato chi da vestita di Natale, il buffo vestito di Babbo Natale. Già è vero, già è vero. Sì. Vai, vai. Bello è lui. Ehi, a Giovanni. Ore. Ehi, a Giovanni, dimmi. Oh, io ho avuto, ho visto solo a capo un cane che mi hanno mandato. Di chi è? Il tuo, Graziano, o il tuo, No, non te ne ho mandato io di cani. No, non te ne ho mandato io. Allora di Graziano. Sicuramente. No, il cane di mia figlia, un pitbull, un cane nero. Esatto, certo, hai fatto il tuo, ma non sarà Torre, no? Ecco perché ti ho fatto una domanda a Torre. No, io pitbull non nasce, semmai ti avrei mandato il cane bianco o il lupo, la lupa, infatti. Tu c'hai il bianco e poi la lupa, non mi ricordavo di questo particolare. Allora non è tuo, Graziano, di chi è il tuo, tua figlia, è così, è? Sì, mia figlia è. Quella che abita la macchia di Napoli in campagna. 6 mesi c'ha, così. Cosa? No. 4 anni fa. No, quanti anni c'ha qui? 2 anni c'ha. Bellina. Infatti no, ho pensato un bittatore. Però non mi ricordavo che cani era, non capito, ecco, tutto lì. È un pitbull. È bello quello. Bravo. Vabbè, la gente che conosci, la gente che non conosci non lo so se è bravo. Bravo lo stesso. Poi lo sta imparando. Hanno musica. Ehi. Torre, riprendi. Ehi, Gio Maria. No, io no, non te ne ho mandato di questa roba. Perché l'ultimo mese che sono andato, lunedì sono andato a vedere i cani, quindi. E va una reci impaccata, va. Infatti adesso quando andiamo dal veterinario te la faccio cucire. Allora c'è affarrato. Ah, la musicheggia, i lupi non musicheggiano alla reci, non musicheggiano. E infatti gli si è girato, ha musicato la mamma della lupa e vavemmo noi, ha musicato la guscia. Male. E la ciupiata un bel. Così no, anda bene. Cazzo, cazzo, la fa, amicizia bella. Già non si aggiustano più dopo. Anche quando magari c'è la zona. Mi ha dato se reale, che tu state la comicissima. Infatti. E poi ne già mari. Reale male su così, cazzo. Poi specialmente quando ce ne sono altri. Si posso azzuffare facilmente. Purtroppo capita anche così. Nemmeno ti immagini pure che qualche volta si azzuffano e allora succede quello che è successo. Okay. E tua figlia cosa ha detto tu adesso? Andateci a vedere. Lunedì c'ero lunedì c'ero. E già sono abbastanza inquieti. Chissà che lei abbia preso il coso di essere gravida. Andiamo a fare una cucciolata. Ah, ecco. Però non li porta via, no, quando va. No, io non se la paravano, verso o agosto o settembre li porta via. Ah, e almeno è tranquilla adesso, dai. Quando riparte è tranquilla e va più, forse va più bene anche, dai. Poi, dove sono già sanno bene, per cui è meglio che sia così, dai. Infatti, è così, è. Infatti, tranquillo sono tranquillo, ma sa che forse me lo devo tenere una settimana qua. Ah, sola è venuta? Sì, Gian Maria, è sola. Ok. Bene, bene. Ogni tanto viaggetto, così che è un po' lontano, è to. Sì, 3 ore di gozo, so, 3 ore di... Anzi, 2 ore e mezzo so, di aereo. Vabbè, certo. E poi dall'aereo deve fare chilometri anche per andare dove abita, no? Se devi pigliare lo treno, perché andare a Torrente se devi pigliare lo treno. Vedo un po', così che... quello è brutto. Sarebbe stato bello, magari, dove lavora, a avere l'abitazione. Sarebbe stato bello così. Come qua, mie. No, è solo che io devo andare, la devo accompagnare a Urbia, andarla a prendere e accompagnarla a Urbia. È più andare in macchina che andare in treno in città. Ah, così è. Ma quella è vicino, questi che la... Quanti sono? Non c'è una città di chilometri, mi sembra adesso, nemmeno pure adesso hanno fatto la superstrada, no? No, c'è sempre la strada vecchia, fai un bel pezzo di strada vecchia. Non è tutto strada nuova. Quando arrivi in un pezzo di strada nuova, prima di arrivare a Urbia. Ah, così è. A Mesorio, lì non è fatta ancora. Ui, non l'hanno venita. Poi a Urbia, a Torra, hanno giambato la garriera. Prima si poteva uscire subito, trovavi subito per andare alla strada nuova. E invece devi fare un altro giro diverso dall'aeroporto. Le cose stanno cambiando. È come andare per esempio prima a Gonfalance, che era brutta, era antica, per passare su un passaggio a livello. Invece adesso non c'è più passaggio a livello, c'è la strada direttamente dritta. E anche all'Isola Bianca è tutto diverso. Hanno migliorato al 100%, dai, si cambierà più bene, dai. Sì, ma per uscire, per trovare la strada nuova per tornare qua, è tutto cambiato, devi passare vicino all'aeroporto, devi passare. Dall'aeroporto tu un giro mano devi va. È da parecchio lo sibattico con quella zona, un mezz'anni sono. Io lo faccio passare la vecchia, molto spesso, quasi tutta la settimana, certe volte due volte alla settimana ho percorso, perché ho imbarcato da Copparaccio, oppure da Isola Bianca, oppure proprio all'ingresso di Olbia. A Genova, a Piombino, a Livorno, Civitavecchia, allora io ero imbarcato io, quando viaggiavo col camion. Gli ha già fatto le due voci, capisci, strade, gattuia. Sì, ma vai, ancora, la prima che l'ultima volta che sono andato passavi in una carriera nuova e ci uscivi direttamente per tornare a Sassari. Ah, ma invece devi fare un giro umano, devi fare, fatto un po' di torre in sagarreggiata. Beh, per forse, perché hanno eliminato un bel di punti brutti, allora devi fare giri grandi, è chiaro, senz'altro, sono queste strade nuove che stanno facendo, purtroppo è così. Luca! Sì, a qua Zugno. Ah, io se vedevo posso lasciare dormire tanto Graziano. Grazie! No, sono qui, no, figlio, qui, ha già preso un po'. Pigliati lo sciroppo e seguo la tosse, mi raccomando, non ti ammalare adesso, Oh, rimane la vedi. No, mi prendo, quando mi corico di quelle pastiglie tipo caramella. Avanno ma mentre che si chiama a caramella sopra e me lo prendo una ieri non si premevo e domani non la visto gradi avanno in mezzo un bevino di caffè poco di mal di gola e l'ultimo ne bisogno altro e io il succio quando c'ho mal di gola faccio molto gagarismi con l'acqua di già lo sa che mi brucia e certe volte passa subito. Ah, Penago, si chiama Penago. Sempre di farmacia, ma mi già sto buono. In effetti già sto buono. Ebbene, io credo, quello fa bene, sì. Ebbene, fa benissimo. Allora, Tito. Sì. Le caramelle per la tosse dai bigliato, per la gola. Ehi, Penago, senza zucchero solo, già li posso prendere. Li ho preso in farmacia, me l'ha preso una. Una ieri notte. E stamani non avevi tutta la linea, va a me giunto un po', me lo sento adesso. Luca, e lui? E Luca Pripa, lo sei sentito? Oh, è cucinando tanta chissà cosa, chissà pigliato oggi. E le manie da tutto magna. Sicuramente Giovanni. Se ti parendi tutti questi cose che si ha comparato. A me non mi ha pensato però. E la vedi cosa a me che so io. Ma carità. Amore! Vabbè, noi ci abbiamo pensato veramente lui. Sennò l'avevamo pensato, l'avevamo preso sì. Prima siamo fermati a Barsale, abbiamo preso il bel caffè e dopo siamo andati là, piano piano, MLM, passi geni. E cazzo, visto che va pieno, l'ugofano va pieno. Già un'ora e mezza e più che non l'incento, deve essere cucinato, tutto a cucinare. Ciao, ti magna, e dopo ammazzavo ci può, ma chi può vi? Ma infatti, vuoi più a brincarlo che girare in tondo. Ah, questa banza che... Gatta, allora ti rimane... Ti ha di più questa banza, gatta. Si mangia questa cosa, gatta. Gatta, mi l'ha pigliato, un cofano mi l'ha pieno. Non lo so, guia. Un cofano, bobo. Vabbè, adesso si va di pure a colazione questi cose. Sembra di buona porchetta, ya. A quanto vedo. aspetta che no. Gatta, già tracciato anche le schiaccialuci, ma chi c'ha lì, ma succiammi. Ma sappiamo la mazzetta. Ma quei cacciarucci, ma di più pesa, non si che si becciano di una mazzetta. Oh, iaia, pacca di daia. Ma non ti chiami la baga, tu di cui mi la baga. Ah, che non l'abbiamo fatto apposta, Lucio, veramente, è stata una cosa proprio che... E che ci pensava? Pensavamo a Graziano invece, beh, Graziano abbiamo pensato, beh, non diciamo niente, facciamo una fotografia dopo a Graziano. E così è stato, vero Graziano? Fate a te la fotografia. Eia! Sì, vedo un po', però di te non ci abbiamo pensato, lui. E se no... magari mamma che abbiamo visto la mezz'ora, abbiamo ammazzato un bimbo la sera, gatta. Però non è andata, cosa fare? Sarà per la prossima, lui. Sì, ci mancherebbe, tranquillo. Ma tu non pensi niente, Gio Maria, tu la guipa. Tu, capito? Già me la paga, non ti preoccupare, tu di cui me la paga. Te ne puoi, ma non mi inviti a cena. Ha detto che sei bussato in alto a un bossetto, a chi non si arrava, Luca. Ce l'ho un soco, grazie. Ma da vedere, non c'è la rabbia di un baffetto. Ma chi sono vicini a me, se ne cucinati, tarotti, dai. O è già mangiati, grazie. No, allora ha detto che devi andare a far finire un travaglio. Ma paura, se no non grava via a finire il figlio. Ah, così è, bobo. Sì, a Gianmarino. Io ne approfitto a che mi sociamente. Ci sentiamo domani, ci sentiamo alla stessa ora. Ok. Ciao Graziano, ciao Luca e Gianmarino. Ci sentiamo domani. Ok, to, dai. Grazie alla piccola chiacchierata che sembrerebbe fa sempre piacere, dai. Saluto di casa e ci sentiamo domani se Dio vuole. Vai lui. Sì, ciao Tore, dai, buona cena e buon tutto, alla prossima, ciao. Ciao Tore, alla prossima, sei concise, ciao, buon tutto, buona cena, buon tutto, saluti al QRA, ciao, e ci conviene di tutto. Ciao, ciao Tore. Così, grazie, come li tagli quelli grandi, quella questione? Quello grande è il mezzo, cioè, ma li fatti e si tirano su. Poco la taula, mi sono da correre con un coso, le barre giù. Anche se c'è un coltello lungo, lo appoggi lì da un colpettino col martello, già taglia giù. E lo appoggi da correre con un coso e si barra giù. Ok, quello che mi interessava. Va bene, signori. Allora, buon proseguimento, grazie alla chiacchierata. Se Dio vuole ci sentiamo domani. Buona cena e saluto lì in casa, grazie. L'ho sentita Rosy, ciao Ru. Saluto anche la Lorenza. Ciao Ru. E ciao anche a Luca, ok. Luca, riprendi, io chiudo, dai. Ciao, Gio Maria, dai, saluto anche a te in famiglia. Alla prossima, buona serata, buona cena. Avanti, grazie. Sì, ciao, Gio Maria. Auguroni, Lorenza. E auguroni a Marina, che sei un femminino, un bacino. Va bene, detto questo, saluto anche io, dai, e chiudo. Ciao, Gio Maria, buon QRT. Ciao Luca, anche a te, salutoni anche chi è l'ascolto. E ciao Tore, anche a Tore. Ok, ciao ciao. Ciao Ro, e a voi anche per te, le feste delle donne oggi, ciao. Eia, anche a te Lore, non abbia gana, no. Oh, a dita che c'è, non mi sto che no, che c'è muove, per te c'è mino, che Lore. Vabbè dai, ci sentiamo. Buonanotte, a domani. Sì, dai, grazie per gli auguri anche per me, eh. Anche io mi sento femminuccia, dai. Ciao, buonanotte, Gio Maria, ciao, buonanotte, Paoletta, Graziano. Saluti in casa, ciao. E saluta, auguroni anche a Marina, vai, o Lu. Così che è la festa delle donne, per cui bisogna fare gli auguri. Ciao Lu, ciao, buonanotte. Grazie a tutti, grazie Paolo e auguri pure a te. Ciao Mari, un bacio anche a te. Ciao, buonanotte, a domani. poi Luca, più tardi ti mando qualche fotografia con la trombetta. Ah, stanotte di stanotte festeggi allora, eh? Allora, perché sono la festa delle femmine, anche io coincido quel giorno, bella bella. Bene, fai bene, mi Rosi, cerca di rimani, mi, Mi travesto da femmina. Fai bene, io sono già travestito. Ehi, va bene, ciao, a domani, ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Credic. Io ti sento, c'è un procuratore, però già ti sento, ma chi? Mi senti? Ti sento bene, quale stai usando? Va bene adesso, va benissimo. Sì, passa sulla 27, va. Guarda un po' Giulio se mi ascolti. L'hai copiato Giulio a Bacchisio? Giulio per Bacchisio? Non mi senti Giulio voi? Non lo so, aspetta, Giulio! Bacchisio, mi senti? Sì, io che ti sento io. Prova Bacchisio, forse avevo il volume basso, prova. Guarda un po' adesso se mi ascolti. Sì, ti ascolto bene Bacchisio. Sei in PMR però, non sei nell'EPD. PMR. Infatti sei in PMR, non nell'EPD. Però fai l'EPD a vedere. Marino, guarda se mi ascolti. Marino. Mi senti, ma chi? Ascolti adesso. Ma chi sei avanti? Vedi un po' se sto andando. A me non mi senti, ma chi? Mi senti? Ma chi zio? Non mi senti. No, non ci arrivo più con Giulio. Allora, come? No, ma sei, adesso sei in PMR? Sì, è in PMR solo, io sto cazzo. In PMR, ti sento in PMR, ma sta arrivando anche il cuore matto. Ora uno, dove te trova, ma chi zio? Sì, arrivi Marino, avanti. E anche tu arrivi benissimo adesso, anzi, meno per Remi adesso arrivi. Giulio, avanti. Sì, ma è in PMR però, è quello il problema. Lì già lo sentivo già da prima, proviamo lì nel PD un attimo, solo un attimo, dai. A 4.33 un attimo, Bacchì. Hai cambiato Bacchì, Giulio, sì.